nostri fratelli, compagni e amici santi. Se domandiamo loro la carta d'identità, i loro connotati, vedrete che tutti sono persone molto concrete. Mentre moltissimi cristiani, moltissimi cittadini di questo mondo concreti non sono. Sono come imbambolati tante volte, fanno e disfanno, con una mano costruiscono e con l'altra demoliscono. Lunatici, a giorni sì, a giorni no, a giorni toccano il cielo col dito, a giorni sono proprio un baratro di iniquità, di malizia. Oh, tanti vanno dietro le fanfaluche, tanti rincorrono il vento, ma è ridicolo rincorrere il vento. Quando tu l'hai rincorso, che cos'hai? Consumato le suole delle scarpe e forse anche ti sei spolmonato per rincorrere il vento. Tanti si logorano per prendere, acchiappare un pugno di mosche. Ma sì, cosa ne fai poi di queste mosche? Quanta gente vive di sogno. Sognano molti a occhi aperti. Eppure sono frenetici. Corrono di qui, corrono di là. L'automobile, la motocicletta, la bicicletta, il telefono, il telegrafo. Oh sì, quanto da fare. E sembrano persone molto attive in apparenza. In sostanza sono persone che sognano, sognano anche a occhi aperti. Vi è mai capitato di sognare di notte? Di fare una corsa? Sì, di essere saliti sopra una montagna ed avere anche sgobbato. Sì, e alla mattina vi siete alzati stanchi, peggio che alla sera. Vi siete coricati stanchi alla sera perché avevate lavorato e il giorno dopo vi siete alzati che eravate più stanchi della sera precedente. Come mai? Perché? Certuni sudano anche sognando. Sognano, una partita, sognano una camminata, sognano una corsa. Ti scompigliano il letto e si suda rincorrendo i sogni. E a volte anche ci si sveglia gridando, come fossimo in un campo sportivo, non so, o fossimo lì in mezzo alla gente a discutere e a difendere le nostre cause, difendere le nostre opinioni. Mamma mia, che notte ho passato. Sono più stanco stamattina che non ieri sera, perché tutto un sogno dietro l'altro, tutta una elucubrazione. Tanta gente vive sognando a occhi aperti, che vuol dire in pieno giorno, corrono di qui, corrono di là, hanno la testa che è come un molinello, si dice, vero? Un mulino che continua a macinare, e grano buono e grano triste, giorno e notte. Questa non è concretezza, amici. No, questo non è realismo. Questo è sognare a occhi aperti, sgobbare a vuoto, lavorare e mettere il ricavato in un sacco buco. Si dice in latino in saculum pertusum, un sacco buco. Se tu hai le tasche buche e ci metti dentro, supponiamo le chiavi, ci metti dentro dei soldi, è come le avessi seminati sulla strada quei soldi e quelle chiavi, perché se le tasche sono buche, butti via. Non vi offendete, perché io sto ripetendo l'insegnamento dei santi che meritano tutta la nostra amicizia, tutta la nostra fiducia, perché sono persone molto sincere. Qui a questo mondo abbiamo da fare spesso con tante bugie e con tanti bugiardi. Anche qui sono parole della Bibbia. E proprio Davide, un salmo, dice «Omnis homo, ogni uomo, mendacium è bugia». Ma si vede che aveva incontrato parecchi bugiardi il re Davide, ma ne abbiamo incontrati anche noi. E i primi peccati che abbiamo fatto venendo a questo mondo sono state le bugie. Bugie piccole, sì, ma bugie. Bugie. Ma i santi che hanno valicato il passo della morte e sono nel regno di Dio, il regno della luce, non dicono più bugie. mentre noi qui sulla terra siamo ancora un po' nella luce e un po' nel buio, a volte nella verità, a volte nella falsità. Fidiamoci dei santi che sono sinceri al massimo.